Allora, in questo momento, anche ieri lo eravamo, ma in particolare in questo momento siamo in radio, per questo texture radio chat, accompagnati da Maurizio Lampi e Claudia Fabris, che anche oggi è online con noi. Anche questo è un esperimento, come tutto il resto. E continuiamo la discussione partendo da degli spunti che Maurizio ieri ha raccolto ascoltando i nostri invitati, che oggi ritornano qui con noi. E brevemente abbiamo Roberta Nicolai, di Teatri di Vetro, prima Triangolo Scaleno e poi chissà quante altre cose. Chissà, no? Esatto. E Attilio Nicoli Cristiani, del Danae Festival, e Teatro delle Moire e chissà quante altre cose il futuro ci riserva, chissà. E, diciamo, con questi due ospiti che avevamo ieri, se riusciamo poi a metterci in collegamento con Sebastian Barbalà, se siamo fortunati avremo anche una voce dalla Romania. Abbiamo Luigi Piccaretta, che non aveva così improvvisamente si è aggiunto, e che noi siamo felici. Ho detto bene il tuo cognome? Piccaretta. È difficilissimo perché ha le doppie, puoi sempre cambiarlo, però se sei sempre in tempo. E Piccaretta, praticamente. Piccaretta. Ah, ma come in dialetto? Piccaretta. Praticamente, è dialettale il tuo cognome. Sì, sì, è proprio da viene da là, praticamente. Fantastico. Che è direttore e co-direttore artistico di Verso Sud Festival, un festival che si tiene in Puglia, a Corato. E sono preparatissimo. E poi abbiamo tutti i nostri ospiti in realtà presenti con noi, che dov'è la cassa? Fatemi vedere, ecco, non ci avviciniamo a quella cassa. E poi abbiamo tutti gli ospiti con noi. Girala verso la pianta, girala verso la pianta. Ok, perfetto. No, la cassa non deve stare verso il microfono. E poi abbiamo ancora alcuni artisti di Alto Fest con noi che sono tornati. Siamo in questo momento nella UOSM a Santa Maria Antesecula, che ospiterà anche nei prossimi giorni le voice over, cioè i dialoghi con gli artisti, e UOSM 29, grazie, e anche il momento del picnic, che è un momento dove condividiamo, perché c'è anche l'altra cassa. Mi girate anche quella cassa? Con delicatezza, no, dall'altro lato, Loretta fa la dramaturg, si vede da come ha girato la cassa. Claudia, tu ci sei? C'è? Vediamo se riusciamo, prima c'era. È tornata con la bottiglia d'acqua? Va bene, intanto che arriva Claudia, io passerei subito il microfono a Maurizio Lampi e poi magari chiudiamo invece con questa definizione della Fabris, ok? Non abbiamo molto tempo perché poi subito dopo dobbiamo correre alla performance di Roberto Corradino, quindi gli interventi vi chiedo brevi, concisi, non più di un minuto a testa, casomai ritornate. Cioè, non ci dilunghiamo, cerchiamo di fare un confronto acceso. Voglio vedere il sangue. Come dire. A quest'ora sarà difficile, ma... Allora... Ovviamente, abbiamo anche oggi con noi Ilaria, che per tutto il festival, Ilaria Garzillo, tradurrà in disegno, nel suo mondo, diciamo, immaginario, nel suo linguaggio, pittorico e grafico, tutto quello che diremo. Grazie. Beh, io mi attengo subito all'esigenza di stare stretti. Dico proprio solo due cose per fare da ponte con la discussione di ieri. Il pane e le rose era il titolo che avevamo pensato appunto per questo momento di texture. Storicamente il pane era il tempo di lavoro, dedicato al lavoro che ti consentiva di mangiare, le rose erano il tempo della meditazione, della saggezza, no? Come dicevano. E quando Carl ne parlò si riferiva al fatto che questo doveva essere un diritto garantito anche agli operai, ecco, per andare al... Transitando attraverso anche delle cose emerse ieri, no? Per il mondo dell'arte in generale, forse ancora di più per le arti dal vivo, questa distinzione, che, e quindi si tratta di una questione di tempo, no? Di tempi, il tempo del lavoro, il tempo dell'ozio, l'ozio nel senso greco del termine. La distinzione... Ma adesso? Mi sentite, scusa? No. Maurizio? Ti sentiamo benissimo, modalità imperatrice della galassia centrale. No, perché va bene, vai pure avanti. Va bene. Vado proprio velocemente, Claudia. E quindi dicevo, cercando di declinare al presente e appunto al settore, sul settore, questa distinzione, siamo arrivati più o meno a vederla così, la bipartizione, quell'equilibrio di vita, di lavoro da trovare tra, sintetizzo, la libertà del processo creativo, le rose, è la sostenibilità, cioè la necessità che comunque pare anche gli artisti hanno di mangiare talvolta. Ed era interessante, mi sembra che quello che è emerso è che le strade sono tante, no? E quindi le modalità per trovarlo questo equilibrio sono tante, le storie che anche gli amici che sono presenti oggi, Roberto e Attilio, ci hanno raccontato, dimostrano una grande, in queste storie personali, versatilità, anche flessibilità, cioè percorsi. Roberta, ne parlavamo adesso, ha cominciato a performer, si è trovata a fare una vita da organizzatrice, manager, tante altre cose. Attilio è partito dalla Bocconi, adesso, quindi anche percorsi trasversali. Niente, io quindi direi che se c'è un elemento comune è quello che non esiste una regola, un modello, ma che ognuno ha costruito un modello. E passerei quindi la parola a Claudia. Grazie. Io volevo fare una riflessione che avrei fatto anche ieri, ma poi non c'era il tempo, eravamo di corsa, proprio sull'argomento, e cioè mi è venuta quasi subito dopo che abbiamo trovato questo titolo, questo focus, il pane e le rose. E mi sono chiesta, ma senza le rose il pane è lo stesso pane? Nel senso che nel momento in cui noi diciamo il pane e le rose, noi separiamo i due ambiti. Separiamo l'ambito in cui si fa soldi, l'ambito in cui si usa, come dire, si pensa di essere costretti a fare qualcosa per ottenere le risorse per... All'ambito, lo dividiamo dall'ambito che ci genera, come dire, legato alla bellezza, all'arte, li separiamo. Io credo che questo sia il problema invece, cioè pensarli come separati è il problema, credo, perché senza le rose il pane è un mattoncino che ti deve solo dare nutrimento, con le rose il pane diventa una rosetta, una baguette. Cioè, no, io non credo siano separabili queste due cose, e se c'è qualcosa che ho capito, adesso ieri sera noi vi abbiamo fatto veramente un assaggio dal percorso di tutto quest'anno, un assaggio finale, era veramente un assaggio, perché alla fine arrivavo a dei pensieri, a delle intuizioni, ascoltando le parole, a dei pensieri, a delle intuizioni che mi fanno convincere sempre di più che invece il punto è portare le rose dentro il pane, cioè questo è il punto. Proprio l'idea di separarli non funziona, perché hai un altro pane, non è lo stesso pane. Usiamo la stessa parola, ma non è lo stesso pane. Ecco, questo è. Grazie Claudia, perfetto. Quindi passerei la parola ai presenti. Chi vuole reagire subito? Luigi? Luigi. Vuoi ascoltare? Voglio intanto approfitto per raggiungere, chiaramente, come dicevamo ieri, che Claudia e Maurizio sono hanno questa, come dire, gli abbiamo affidato la cucitura di questi dialoghi ieri e oggi, perché gli abbiamo affidato questa ricerca sulle economie generate da Altofest dalla sua nascita ad oggi, e quindi sono in questo percorso di ricerca. Ci sembrava bellissimo che fosse il Trade Union per gli incontri e le talks che abbiamo in questa edizione. Lo specificavo per chi ci sta ascoltando e per chi ieri non c'era, chiaramente. Poi troverete tutto online in podcast, rieditato, raggiungibile, insomma. E, chi vuole reagire? Roberta, Attilio, voi ieri avete detto tante cose bellissime. No, ma mi aggancio a questo che diceva Claudia, ma perché nel percorso personale che io ho fatto, appunto, in questo modello che fa acqua un po' da tutte le parti, se vogliamo, quindi è suscettibile di cambiamenti continui, di trasformazioni, proprio perché ci sono elementi importanti che devono rimanere ed elementi che invece si devono trasformare. Però io ho cercato proprio un po' di portare le rose dentro il pane, cioè nel senso che ad un certo punto noi, Teatri di Vetro, è finanziato dal FUS, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, da una fondazione bancaria. Gestire questa roba qui per me è altro che pane, è mattone, ma sì, oltre il mattone, diciamo che c'è una sorta... una roba assurda nel tempo, no? Di fatica, di compromessi inizialmente per rispondere, per stare dentro alcune griglie e della regione in un modo, del comune in un altro, eccetera. Però quello che in questa ultima stagione, in questi ultimi anni, ho cercato di fare, proprio perché non avevo più la possibilità di gestire a livello personale la separatezza di cui adesso accennava Claudia, cioè da una parte c'è un introito di soldi necessario senza il quale non potrei pagare gli artisti, pagare gli spazi, pagare i collaboratori, insomma vivere, dall'altra invece poi c'è una spinta ideale alla ricerca, e il tentativo è stato quello di, e l'azzardo di andare a pensare un progetto assolutamente radicale, sperimentale, ma cercando di farne una narrazione per ognuno degli enti ai quali si chiedono denari, una narrazione che fosse adeguata in qualche modo a quei parametri. E questa cosa che io pensavo veramente, dico, mi tireranno, mi defenestreranno, cioè dal FUS, in realtà, siccome poi siamo sempre quella zona ribelle che lo Stato deve prevedere al suo interno, quindi non è successo, e questo mi consente oggi di sopportare il fardello dei mattoni, perché aprono la possibilità di un campo di ricerca che è personale e che è poi condiviso con tutti gli artisti, e che senza quel mattone non sarebbe in piedi, e senza però quel campo di ricerca quel mattone sarebbe insostenibile arrivato a questo punto. Cioè non starei a, appunto, riscrivere progetti, rifare 1500 documenti, eccetera, non lo farei più dopo 16 anni, se non fosse che da quella... Certo. Da quell'impegno, certo, si apre, appunto, si mantiene questa finestra aperta che via via si spalanca continuamente su ulteriori, certo, orizzonti. Quindi da lì nasce pure il desiderio che l'azzardo non, cioè la fiducia un po' incosciente, un po' adolescenziale, che l'azzardo tutto sommato non ti penalizza, e quindi il tentativo di rilanciare. Di rilanciare costantemente, no? E quindi anche su progetti più piccoli l'azzardo diventa sempre più, insomma, non so come, deciso, e questo mi dà il senso di continuare a farlo. Perfetto, grazie Roberta. Rubo una definizione di cui Roberta mi ha parlato prima di cominciare a parlare, che mi sembra molto bella, cioè navigare fra il razionale e l'irrazionale. Anzi, mi viene in mente che una metafora possibile anche da utilizzare potrebbe essere quella dell'andare di bolina, no? Per chi ha avuto qualche esperienza di vela, cioè controvento, ma trovare la possibilità anche controvento alla fine di andare nella direzione che si cercava. Posso dire una cosa, scusate, perché sì, cioè tutto quello, tutta questa cosa qua senz'altro, nel senso che poi è il modo in cui ci si avvicina, però il mio dire di portare le rose dentro il pane è anche un po' il chiedersi, cioè per esempio siamo tutti massacrati dai bandi, per esempio, no? Che hanno alcune logiche che secondo me sono profondamente discutibili, e però appunto uno lo accetta perché poi ti permette di fare le rose. Hanno alcune cose strutturali, le rose e un certo tipo di pane hanno però delle strutture diverse. La mia domanda, la mia riflessione è, ci accorgiamo che a volte, per esempio la tempistica, per esempio, una cosa banale, la tempistica, cioè il fatto di voler continuare a fare sempre di più, una cosa che vedo anche nei progetti bellissimi, è quella di fare sempre di più, e quando fai sempre di più a un certo punto inevitabilmente la cura se ne va, è inevitabile, non è una scelta, è proprio una questione fisica, di tempo e di energie. E sembra che non si possa veramente interrompere quel cerchio, perché sennò perdi qualcosa, perdi il giro. Allora qui è come dire, è come se la rosa è frutto di una cultura, no? È qualcosa che viene coltivato, una cosa che viene coltivata ha un tempo, ha dei tempi che non possono essere accelerati. E quindi in questo senso, mentre il pane, come dire, è frutto di una produttività che può essere sempre più accelerata, a un certo punto la rosa non la puoi più fare veramente, diventa l'immagine di una rosa, diventa il ricordo di una rosa, diventa lo slogan di una rosa, diventa il racconto di una rosa, ma non è più una rosa. È questo il mio pensiero, cioè che vedo che molte volte anche veramente, io frequento, penso, solo situazioni che vivono di rose, cioè nel senso che hanno scelto la rosa come direzione proprio radicale. Ciò nonostante vedo che questa separazione c'è, e che l'idea a volte di dire no, però io devo portare le strutture della rosa, il modo in cui la rosa cresce dentro il pane, invece noi pensiamo sempre no, io uso il pane che è faticoso e mi ci adatto e lo imparo anche se non ne ho voglia perché la rosa è bella. Io sto dicendo ma non possiamo far fiorire il pane, questo è. Cambiare, cioè è troppo immaginare questo? Anche mangiare la rosa potrebbe essere un... anche mangiare la rosa. Non lo so, aspetta che ci penso. Sì, anche, non lo so, mangiare la rosa succede quando l'arte diventa, come dire, prodotto. Quello già succede, si mangia la rosa, la usi come il pane. È il contrario che è più difficile. Grazie Claudia. Attilio, sì. Adesso che stiamo parlando appunto di questa... condizione che è quella dei bandi, cioè diciamo dello stare dentro con una certa insofferenza in questo meccanismo, mi è venuto in mente che nel 2008, quando abbiamo acquisito, abbiamo conquistato dopo anni uno spazio, conquistato nel senso che abbiamo affittato poi uno spazio, non ci è stato donato nulla a Milano, abbiamo preso la decisione di affittare un luogo, abbiamo seguito un po' l'istinto, quindi diciamo abbiamo seguito la rosa, se vogliamo dire così, perché abbiamo detto che avevamo tanto bisogno come compagnia di un luogo dove stare, ma già era molto avviato anche il processo del festival e quindi quel luogo non poteva essere il nostro luogo, ma un luogo condiviso. E quindi la prima cosa che abbiamo immaginato è stata una sorta di prima forma di residenza, in qualche modo, chiamando due compagnie del territorio, molto giovani, e insieme ci siamo seduti intorno a un tavolo e così, senza avere risorse, se non uno spazio, abbiamo detto, e il festival, che in qualche modo era una risorsa comunque, abbiamo detto ok, sediamoci intorno al tavolo, voi diteci tutto quello che, che volete, tenendo conto che c'è uno spazio e un festival. E sono arrivate fuori un po' di idee, di cose. E abbiamo costruito una sorta di progetto non finanziato con queste due, diciamo, colonne. E poi è arrivato esattamente a distanza di qualche mese un bando che andava esattamente in quella direzione, come se in qualche modo quando segui la rosa poi c'è qualcosa da fuori, sì. Che ovvio non era un'istituzione pubblica, era un'istituzione privata, era un altro tipo di una fondazione, eccetera eccetera, quindi comunque era un bando a cui parteciparono tantissime realtà in qualche modo, e noi fummo vincenti tra poche realtà con un finanziamento molto sostanzioso su quel progetto, perché quel progetto era nato prima. Perché era già vostro. Sì. Era già nostro, quindi secondo me un po' penso al fatto che il meccanismo sì. giusto è un po' quello di far generare le cose e sì, un po' renderle autosufficienti, tra virgolette, nel senso anche senza l'economia, scusate, sì. i soldi che ci vogliono, però come dire, costruirla col cuore, con qualcosa che pulsa di vivo, e poi può succedere questa cosa, può sì, succedere sì. questa cosa, adesso non è così che succede nella vita, però insomma è successo. Io penso di sì invece, che succeda proprio così. Cioè proprio, guarda, io penso proprio che succeda molto più spesso di quanto uno non possa, come dire, immaginare razionalmente. Penso che sia, è proprio un processo, quello che hai descritto, perfetto, secondo me. Che poi potrebbe essere formulato, produrre qualcosa che non ha apparentemente ancora un mercato quando la produci, ma che poi invece, che mi sembra una cosa fondamentale. Luigi, hai sentito abbastanza? Oh, ok. Beh, innanzitutto ben trovate, ben ritrovati tutti meravigliosi qua. E non vorrei, rispetto, Atelier, sì, Bologna, Fiorenza. Non vorrei dissacrare troppo la nobiltà del pane, ma sappiamo benissimo che per tanti aspetti il pane è veleno. E la prima cosa che ci viene detta, io se vado da un medico qualsiasi cosa dico, mi dice non mangiare più il pane. Ok, lo dice a me, io mi posso permettere di immaginare di poter passare dalla pasta alla quinoa, al riso integrale, cose di questo tipo, ma c'è un altro veleno che stiamo vedendo. Cioè ci si preoccupa del veleno che non viene neanche più, non può essere mandato alle persone che non possono ragionare sulla quinoa o il riso integrale o il riso venere o l'alternativa. Quindi io col pane faccio fatica. È un po' la fatica che provo, ve lo dico, forse un po', ma sapete io sono un po' borderline, è un po' la fatica che trovo nel fumare l'hashish. Io non lo fumo più. Non lo fumo, non inizio a avere quello strano rapporto con la farina, io non ce la faccio, quindi il pane forse perché non mi va neanche di immaginare più che io posso mangiare il pollo biologico e che costa qualche euro in più, e ci sono troppe persone che invece alle quali viene dato il pollo perché è la carne che costa meno in assoluto e che è una porcheria. Ok, questo è il piano. Quindi trasliamo, arriviamo anche sul rapporto realmente ampio su questo concetto di pane. Sono un po', faccio un po' le rose, no, le rose, ecco, rispetto alle rose, alle istituzioni e il rapporto con le rose, io non mi devo mettere dentro uno schema. Mi ci metto e faccio anche delle furfanterie, non ho problemi, mi vengano a prendere, non ho problemi. Il problema serio è che continuo a dire, a immaginare, a chiedere, che parlo, se parlo per me, parlo in realtà per tutte le istituzioni culturali, gli artisti che noi sappiamo e conosciamo, che non vengono fotografati per quello che sono. È questo il problema, che l'istituzione non è in grado di fotografare e noi dobbiamo essere in grado di continuare a pretendere di essere fotografati, perché il nostro quotidiano è in relazione alla necessità della rosa e di quello che ci fa sostenere bene, perché sarebbe corretto che ogni essere umano potesse aspirare a un cibo decente e a tutte le rose di cui ha bisogno, e che per questo venga fotografato, venga visto, riconosciuto, osservato. Ah, non tu stai dentro uno schema, come diceva lui, cioè tu non è che stai dentro uno schema, tu costituisci lo schema, e io da, diciamo, istituzione devo costruire qualche cosa che ti permetta di poter continuare a progettare così come tu hai ideato, perché le idee stanno da una parte, questo è indubbio, magari anche in dialogo. Non è un'opposizione tout court, magari anche in un dialogo, però le idee stanno da una parte, stanno da questa parte qua, stanno dalla parte di chi io chiamo degli artisti, mi metto in relazione e poi dopo, ok, basta, non ho altro da dire. Tanto è un dialogo, no? Roberta voleva... Beh, facciamo anche un attimo intervenire Rosa. Sì, certo. Scusa. Perché è molto vicino a quello che diceva lei, quindi sono Rosa Coppola. È una cosa molto rapida rispetto a quello che diceva Fiorenza prima, perché nei vostri racconti c'è un'enorme componente delegata al caso. Lei ieri parlava del fatto che ha cominciato in un modo e poi si è trovata senza una pianificazione, è successo. Qui era partito un progetto e poi casualmente è uscito un bando che andava bene. Questo non è sostenibile, non ci si può affidare a una programmazione fatalista, perché una programmazione fatalista è una contraddizione in termini. Quindi provo a portare questo spunto, che è una domanda, in un lessico economico. È possibile un piano quinquennale sostenibile? Ma posso rispondere? Tanto stiamo dialogando. Tutti i piani quinquennali sono falliti all'epoca, sì, glorioso. Nel senso, cioè... No, perché è veramente molto interessante, Fiorenza, mi sembra che abbia centrato un punto, non so, ma si potrebbe riassumere con burocratizzazione, cioè come se ci fosse un'esigenza dello Stato ineludibile di standardizzare. E standardizzare vuol dire appunto non fotografare, cioè non vedere davvero, e questo il punto, giusto? Forse non parliamo, siamo in radio, senza microfono non ci arriva. Sì, certo, fino a un certo punto così, poi in realtà le cose si complicano da un certo punto in su, diciamo così, diventano più complesse, però sì. No. Ok, passo la parola a Roberta. Voglio solo una dire cosa che, partendo da quel presupposto, si tratterebbe di capovolgere totalmente l'impostazione del FUS, giusto per uscire. Ok. Sì, sempre attirio solo la risposta per dire che è sostenibile il progetto, perché non aveva bisogno del bando. Cioè non è che l'abbiamo fatto per un bando, era sostenibile perché era un progetto che partiva proprio dalle basi e si sosteneva. È arrivato il bando e gli ha dato delle risorse in più e l'ha fatto, come dire, ampliare, però era sostenibile, ecco, questo per dire che no, perché comunque stiamo parlando di un progetto sostenibile, perché a fronte di una storia aveva un luogo da cui cominciare. Molti progetti, soprattutto di persone della mia età, se non più giovani, non hanno proprio da dove cominciare. Allora, in questo caso, io mi sento proprio obbligata a riportare questa cosa. Nel senso che immagino che un po' tutti ci siamo... Cioè, non voglio creare una condizione unica, irripetibile rispetto a questo. Però se si parla da una postazione, secondo me è interessante anche riportarsi in quella postazione di prima, perché le vostre storie per me sono interessantissime, ma sono estremamente poche fattispecie in un universo sterminato di rose che non nascono nemmeno, cioè non ce la fanno manca ad appassire. Allora, se stiamo parlando di generare economie poetiche e di una programmazione che investa anche nel senso fisico le istituzioni, probabilmente ci si dovrebbe anche chiedere come lasciare spazio a progetti in fieri di diventare autosostenibili nell'attesa che poi questo caso divino arrivi e centri il punto per noi. Questo secondo me è un'istanza veramente importante. Mi volevo agganciare a Fiorenza, ma poi sono passate altre questioni. Perché Fiorenza parlava appunto di furfanteria, o insomma, io parlavo di azzardo, un po', diciamo, era un termine un po' così per dire più o meno la stessa cosa. Io vengo da filosofia, cioè sono laureata in filosofia. E quello è il mio imprinting anche mentale. La questione è che le norme, cioè lo Stato norma, il FUS è un insieme di norme, sono anche paletti, ma sono paletti in mezzo ai quali c'è uno spazio infinito per muovere degli azzardi e delle furfanterie. Adesso non vado nel tecnico perché è impensabile, insomma non ha senso. Però la questione è che fatto salvo l'obiettivo, cioè che cosa vuoi tu effettivamente, in relazione anche ad uno Stato che, per il quale appunto sei invisibile o tollerabile o quello che è, cioè in relazione, interpretando quei paletti, dentro, almeno per ora, per me in questo momento, le rose ce le puoi coltivare. E sul tempo lo puoi. Io per esempio con Teatri di Vetro il tempo, cioè il tempo per far crescere un processo, l'ho dilatato nell'arco dei 4 anni. Cioè non ho dato agli artisti il tempo di uno slot, di un festival, di un anno, ma sono, infatti Giulio prima mi chiedeva ma chi c'è quest'anno? Dico ma sono gli stessi, perché non siamo arrivati dove dovevamo arrivare, cioè, quindi in qualche modo, non tutti gli stessi, però in qualche modo l'arco temporale offerto agli artisti non è stato diverso dall'arco temporale offerto a me stessa come campo di ricerca. Ho utilizzato i 4 anni. Perché? Perché appunto, in effetti, la tempistica, come diceva Claudia, spesso è la nemica di queste fioriture, no? Cioè il fatto che devi andare, fare, consumare, buttare. Quindi, e questa modalità, per dire, questa dilatazione temporale è un azzardo, è una furfanteria, è? Aspetta. No, semplicemente non si sente in radio, quindi non è come non esistere in questa casa. Sì, però ci tiene in uno statuto di inciviltà, appunto di furfanti, e questo è una cosa gravissima, è una cosa di una gravità culturale, civile, filosofica. Sì, infatti, impressionante. E su questo abbiamo però fatto battaglie per 20 anni. Senza riuscire, però è così, cioè io ho perso contributi per interventi pubblici al Teatro Argentina, cioè nel senso le battaglie le abbiamo fatte perché fosse, perché le norme in qualche modo leggessero l'esistente. Qualche cosa è uscito fuori perché appunto che le istituzioni si siano accorte delle residenze eccetera, quelli sono stati processi lunghissimi, convegni su convegni, quindi è chiaro che abbiamo fatto un pezzo importante di politica per cercare di non essere incivili. Siccome siamo dove siamo arrivati oggi dopo 20 anni, a questo punto io dico, cioè opero da corsaro in qualche modo, opero in un'altra direzione in questo momento. Io cioè non ce la faccio più ad avere una, diciamo, un'azione politica diretta, preferisco farla dentro gli oggetti artistici. No, Volevo Loretta Mesiti, dramaturg di Alto Fest, volevo richiamare l'attenzione su un concetto, non so se Claudia è ancora con noi, spero di sì. Sì, sono qua. Un concetto su cui Claudia sta lavorando nell'ambito di questa ricerca, che è quello di leggere l'economia a partire da una etimologia sovversiva e anti fedele alla storia della parola, che è quella di eco dei nomi. Allora, in un certo senso, il valore sta nel riconoscimento che un nome riesce ad attrarre attorno a sé, un nome, una narrazione, un discorso. E quindi forse la responsabilità poetica, la responsabilità politica che abbiamo è quella di esercitare il nostro atto di ribellione e la nostra azione corsara nel difendere lo spazio linguistico e nell'uso linguistico che facciamo, cioè nel continuare a essere di fronte alle istituzioni con il significato che noi sappiamo dare a ciò che facciamo e cercando di renderlo, di mantenerci nella relazione linguistica, discorsiva con l'istituzione, con il sistema, con tutto ciò che in ambito culturale riesce ad emergere, affinché le nostre pratiche abbiano un nome che poi diventerà uno spazio di riconoscimento politico, per cui quell'ecosistema di cui Rosa sente la mancanza a un certo punto, forse piano piano, riuscirà a generarsi. Ma non sarà Rosa a vederlo, perché sono tempi pachidermici, quindi io capisco anche l'urgenza di Rosa di esprimere questa cosa, che non è un'espressione contro, ma è un grido di aiuto proprio, quindi lo accogliamo totalmente, insomma. Claudia, tu volevi aggiungere qualcosa, mi sembra, ti ho sentito. Oh, mi sono persa, non mi ricordo più dove era il punto. Allora, nel frattempo torniamo a Luigi, che nel tentativo di avere il microfono è stato travolto dal giro, ma è bellissimo questo, bellissimo. Sì, sì, assolutamente, bellissimo perdersi, e serve. Ciao a tutti, Luigi Piccarreta di Verso Sud Corato. Io a un certo punto Claudia ha detto perché non proviamo a portare le rose nel pane, ed lì in realtà ho fatto un po' un altro giro rispetto a quello che c'è stato, cioè mi sono soffermato un attimino sui due archetipi, cioè nel senso quello del pane, quindi del mondo materiale, e poi quindi quello delle rose, di quello spirituale, culturale che cerchiamo di coltivare e far crescere. E guardandoli in questa prospettiva, se lo vedo proprio fuori anche da quello che facciamo, anche da questo stesso contesto, quello a cui mi porta è uno dei miei pallini, e cioè di come poter portare questi processi di trasformazione, alla fine culturale e spirituale, all'interno proprio del nucleo centrale del mondo materiale, che sono le aziende. Alla fine, e su questo io rivolgo una domanda a Maurizio, che c'è stato per tanto tempo e anche in dei tavoli molto interessanti. Che cosa manca secondo te per poter iniziare effettivamente a fare qualcosa? Perché diciamo, provandoci, ci sono proprio tante resistenze proprio culturali per poter avviare questi percorsi. In azienda, dici. Bella trappola che mi hai. No, non lo so, mi sembra, adesso stavo seguendo stavo facendo un'altra riflessione, ma per rispondere alla tua domanda, mi sembra che qualche cambiamento si cominci a intravedere. Cioè, tante aziende addirittura, come dire, inseriscono all'interno dei processi grandi aziende, cioè aziende che abbiano risorse adeguate a coprire spese che normalmente sono viste come accessorie. Però mi sembra che ci siano alcune grandi aziende che addirittura hanno inserito nei processi di formazione del personale momenti di avvicinamento al mondo del contemporaneo, direi in generale, che si tratti di arti dal vivo piuttosto che di percorsi guidati non banali anche all'arte in generale. Quindi non so, sì, la mia tipo, no, però tu che, una cosa, una domanda concreta, una, tipo tu che ne hai fatti alcuni di CDA, cioè tipo come potrebbe entrare Altrofest in un CDA, cioè come potrebbe contaminare il CDA di una grande azienda Altrofest? Io penso che prima di tutto si dovrebbe stabilire se Altrofest potrebbe essere interessato a entrare, perché la riflessione sì, è proprio sì, questa. Potrebbe, figurati, sì, sì. Perché stiamo riflettendo proprio su questo, no? Cioè la totale libertà creativa a volte confligge con vincoli che poi inevitabilmente trovi quando ti confronti con le istituzioni ma anche col privato. Posso dire, rispondo in realtà, dato che mi chiedete Altrofest come può entrare nelle aziende, insomma, noi entriamo ovunque, cioè, ma in realtà ci interessano i luoghi che sono domestici, cioè ci possono essere delle aziende che magari hanno o sono costruite sul senso della casa, della familiarità, del bene comune, dove non siamo tutti schiavi di un processo produttivo necessariamente, ma contribuiamo tutti alla condizione di benessere che produciamo, ma perché ci ritorni indietro e non ritorni al singolo, ma ritorni alla comunità, in questo caso non inoperosa, come direbbe qualcuno, ma operativa quantomeno, neanche operosa, operativa così. Però noi per esempio siamo in un'azienda sanitaria in questo momento. Noi siamo in un luogo che è un luogo della ASL, cioè azienda sanitaria locale, dove dopo una riforma le nostre unità operative eccetera eccetera sono diventate aziende, giusto? Quindi il servizio necessario statale offerto al cittadino diventa prodotto da vendere. Quindi noi siamo in un'azienda in questo momento e stiamo riportando a quel senso necessario, rituale, comunitario, questo luogo che è un luogo che negli anni si è voluto, questo luogo come tutti i luoghi come questo, no? Come tutti i luoghi in qualche modo marginali, diciamo così, queste istituzioni totali che si vogliono fuori dai nostri corpi. Si vogliono corpi esterni, di modo che li possiamo vedere da lontano, non ci riguardano più, no? Li possiamo tenere a distanza in questo senso, ma questi corpi in realtà sono nella città e sono trattati come aziende. La città stessa, il comune, è un'azienda. La città metropolitana dove Altrofest è stato per 3 anni di seguito, e qui abbiamo appunto Fiorenza Menni di Ateliersi che insieme ad Andrea Mochisismonti hanno abitato la città metropolitana ex provincia, il palazzo dell'ex provincia. In quel caso anche quella, la città stessa, è un'azienda, e in quel caso Altrofest è entrato lì non per usare una location, una venue, come si dice, diciamo, no? un luogo di spettacolo, ma affinché gli artisti in residenza lì dentro portassero, incrinassero la geometria dei corridoi, delle scale, la routine, la percezione del tempo delle persone che abitavano quegli spazi lavorando. Cioè, Altrofest non è uno spettacolo, nel senso non cerca luoghi di spettacolo, non abbiamo bisogno di luoghi, spesso ci offrono, uno spazio bellissimo per Altrofest, pensa l'hanno appena svuotato, allora non ci serve. Cioè, nel senso, se immaginiamo un'azienda come luogo abitato, certo ci possiamo andare per quelle persone che sono lì, per il loro per incrinare il loro abitare. Mi fai pensare, rubo solo un piccolo spazio per fare una riflessione. Comunque è paradossale che, vabbè, ecco, Anna adesso parlava, questa per esempio è una collaborazione con una ASL, no? Loro hanno una esperienza pluriennale di lavoro nelle carceri, no? Ma se ci si riflette, è paradossale che appunto le grandi aziende comunque abbiano una certa sensibilità nell'avvicinare i propri dipendenti al mondo dell'arte, perché lo ritengono uno strumento per la loro crescita e quindi, per usare una brutta frase, per aumentare la produttività, e non si pensi a farlo ma in maniera ordinaria nelle scuole, perché non dovrebbe essere parte della crescita civile dei cittadini. Se tu escludi progetti, come diavolo si chiamano, non mi ricordo, progetti speciali, no, che il singolo insegnante può proporre, straordinari, no, extracurriculari, se tu escludi quelli che sono sempre rimandati alla buona volontà del singolo insegnante, non c'è niente di, che istituzionalmente, anzi purtroppo, e non vedo all'orizzonte grandi modifiche in questo senso, andiamo, si parlava prima di burocratizzazione, a un aumento della burocratizzazione delle valutazioni, cioè non c'è niente che veramente riguardi appunto la crescita, la conoscenza, intanto la conoscenza davvero di ogni singolo studente che il mondo, che l'utilizzo del mondo dell'arte potrebbe fornire, ma neanche il pensiero di usarlo come strumento. Questa mi sembrerebbe, anche da un punto di vista sindacale del mondo dell'arte, un terreno da battere. Cioè non parlare soltanto delle modifiche, adesso il FUS è in discussione, no? Cioè, per dovere ho seguito un po' le proposte, se ne sta discutendo tanto adesso, mi sembrano sempre un po' proposte che non mettono in discussione il ruolo dell'arte nella società, ecco, per usare una parola grossa. No, mi viene da dire, da una parte appunto, che quello che noi facciamo non ha una centralità dentro la nostra cultura da diverso tempo. C'era una centralità del teatro che oggi non c'è, quindi di questo va preso atto nella maniera più assoluta. E l'altra questione è, ma di che, mi viene in mente, di che cosa si nutre l'arte? Cioè in qualche modo, mettendo insieme pane e rose, cioè di che si nutre? Ed è chiaro che in questo contesto si nutre tantissimo della relazione, no? Tutte le testimonianze, lì viene nutrito proprio il fatto artistico. In altri contesti, pure per me, diciamo, è fondamentale che gli artisti siano nutriti dallo stare, cioè che l'arte sia nutrita dallo stare dentro teatri di vetro, però la strategia programmatica e artistica è completamente diversa, ma comunque l'obiettivo in qualche modo è lo stesso. E mi viene da pensare che comunque questo contesto, la scuola, cioè la scuola in questo modo, le istituzioni, diciamo, niente, no comment, e tutto il resto, questo contesto è quello che ci è dato, e che noi che lavoriamo sui linguaggi del contemporaneo da questo contesto non possiamo prescindere. Cioè, non è in un termini di resa, è molto vicino il mio pensiero a quello che diceva lei, nel senso è anche una riformulazione linguistica, una modalità di come racconti, di come anche a volte gliela racconti, ma comunque non puoi prescindere da questo contesto, e soprattutto se ti occupi dei linguaggi della contemporaneità. E neanche possiamo dire, ah, questo del contemporaneo mi piace, l'uso delle ultime tecnologie, questo non mi piace, perché le cose sono interconnesse. Cioè, quelle tecnologie che io utilizzo all'interno della mia performance sono il prodotto di questo contesto. Quindi neanche a fare, diciamo, proprio assolutamente, non so, mi sembrerebbe da una parte un po' naif, dall'altra un'incoerenza totale, quella di pescare ciò che possiamo usare, perché allora lì anche siamo noi stessi in qualche modo utilizzatori del contesto. La presa di, invece, al contrario, secondo me, un'osservazione costante di quello che è, e un tentativo di spostare, magari limitando, questo anche rispetto a Rosa, partendo dal piccolo che tu puoi avere in un momento, ma lì eserciti quella coerenza per spostare. e poi quella si allarga da sola, non è la, non credo la casualità, non credo tanto che sia casualità, sia che è proprio che semini qualcosa e quello piano piano si allarga, no? Quindi è un po' questa la strategia che io vedo per stare al mondo, perché mi interessa questo mondo, per quanto devastato, mi interessa nelle sue estetiche deformate, cioè, altrimenti non farei questo tipo di lavoro. Mi interessa la nostra deformazione, la nostra decadenza, il nostro baratro e abisso, la nostra vulnerabilità. A me questo mi interessa. Non voglio andare a teatro a vedere una cosa confortante. Non voglio andare a vedere una cosa ideale. Io voglio vedere la bruttura di quello che siamo, fino in fondo. Però allora ci devo stare a contatto. Sì, però tu vai a teatro e cosa vedi? Una cosa confortante, una cosa che non è sul baratro? Se per teatro intendiamo... No, teatro... Capito, però questa è la questione, perché il teatro italiano non è quello che... Ma certo, okay. Ma io quello non lo considero. Però, non lo considero teatro. Sì. Però, cioè, no, io parlo della scena, lo considero nemmeno scena, sì, sì, capito? Sono perfettamente d'accordo con te, è chiaro, però non è che ti voglio spingere per forza a continuare a fare lotte, però sappiamo benissimo che su questa questione tu sei obbligata ad un azzardo, e questo azzardo alimenta esattamente quello che tu non vorresti da un punto di vista... Lo so. Okay, ecco. Lo so, mi incazzo, allora, vedo una scenografia che costa come tre volte il mio festival, eccolo. E mi incazzo, okay. Certo, è chiaro che è così. La scenografia, e vogliamo parlare di come gli attori entrano in scena, di come gli attori parlano, guarda, di cosa dicono? No, lo sappiamo. Okay. Okay, benissimo. Queste sono economie incazzose, non ribelli. No. Vabbè, dai. Erano ribelli. Io posso riportare al mio ambito così un attimo, tanto sono le 15:16. Aspetta un attimo che ci abbiamo Amalia, un attimo, e poi passiamo a Claudia, subito dopo Amalia. Anche perché poi, Claudia, io direi, scusatemi, passiamo poi a Claudia e poi mi dispiace, dobbiamo salutarci tardi, perché c'è la performance dopo di Corradino, quindi poi ti lasciamo con la tua chiusura, ok? No, provo ad essere veloce, così magari ce la faccio. È strano, mi sembra che da ieri siamo partiti con questo discorso rispetto alle rinunce. Qui stiamo parlando di pane e di rose, ma no, stiamo parlando di pane, nel senso che il nostro oggetto fondamentalmente è la mancanza, ovvero tutti questi discorsi che ci diciamo. E quindi prima si accennava a dovremmo forse ripensare l'arte, il ruolo, la funzione, se ne ha una. No, dobbiamo rifare. E però sì, è interessante come parlando di economia escludiamo completamente un termine e ne prendiamo in considerazione solo uno, perché fondamentalmente più o meno è quello che io ho avvertito. Magari mi sono persa delle parti, però questo. No. La rosa. Scusa. No, prima rosa... abbiamo parlato di rose. Io ho detto, però, sì. Era sempre con un oggetto, con un fuoco particolare sulla nostra, che è comprensibile, che è la cosa che ci fa soffrire, la nostra mancanza. Però se provassimo a spostare, mi chiedo, io non ne sono capace, premettendo questo, che nella misura in cui mi sono interrogata, non è che sia riuscita a darmi delle risposte risolutive, geniali, però... prendo nota, non so, prendo contezza di questo fatto, anche per quanto mi riguarda. Ha detto la fine. ovviamente io lascio a Claudia adesso, sì, perché... Io vi leggo due parole, velocissima. Allora, una è per Rosa, e Rosa... Ne parleremo con calma di quello che hai detto, con calma, con tutta la calma che serve. Però ti lancio questa cosa, intanto, che non è un giochino per me, lo sai, ed è la definizione di caso. Nelle lingue il caso è la flessione del nome, nomos in greco antico è lo spirito delle leggi, quasi a suggerire nel caso la riflessione di una legge che ancora non conosciamo. E vorrei ricordare che economia è proprio nomo, è il nomos della casa. Quindi, e la casa per qualunque essere umano, qualunque essere umano condivide due case, il pianeta e il corpo. Ed è curioso che queste due case sono rette da una matrice, dalla legge di una matrice, mentre noi adesso stiamo parlando e siamo nella legge della cultura, che è la legge della parola. E viviamo in una matrice, che genera parole che informano la matrice. Viviamo dentro questo gioco noi. Quindi è molto interessante secondo me, che poi si può anche declinare a pater e mater questa cosa. Per finire vi leggo la parola che non ho letto ieri sera, che è finanza. Da finare per finire. Da finare è l'etimologia. Se la costanza è la qualità di chi è costante e l'abbondanza la condizione di chi è abbondante, la finanza potrebbe essere la pratica di portare a compimento un processo, la capacità di finire, l'attività che conduce ogni cosa al proprio fine, quel fine che giustificherà ogni mezzo per essere raggiunto. Ma qual è il fine? Se guardo la parola, inizia con una fi e poi c'è la lettera n. Fi è la 21esima lettera greca e rappresenta in matematica la sezione aurea o proporzione divina, il rapporto fra due lunghezze disuguali, delle quali la maggiore è media proporzionale tra la minore e la somma delle due. La lettera N in ebraico è la lettera che rappresenta le cose create, il tempo necessario ad un processo di creazione e manifestazione. Allora, il fine di ogni cosa potrebbe essere arrivare alla proporzione aurea nelle relazioni, crearla, concretizzarla con tutto il tempo che ci vuole. Grazie mille Claudia, grazie grazie Maurizio, vedi che Fabrizio torna perché... Torna, vabbè. Sai perché questo incontro, questa crasi tra Fabris e Maurizio? È proprio così, a proposito di nomi. Ormai siamo una coppia. Potrebbe essere l'alter ego in un unico nome, cioè, Fabrizio. Allora potrebbe esserci il professore, la cameriera è Fabrizio. Che comunque sembra un film di Lina Wertmüller, che è morta poco. Sempre. Comunque. Allora, intanto vi ringrazio. Grazie a voi. Dico che comunque nelle prossime giornate ci sarà l'Amaro dell'Economia di Maurizio Lampi, di sera dopo le 22, da show che andrà in radio, insomma brevi interventi e incursioni, mentre noi nel frattempo ci avvinazziamo. Sì, tu lavori, noi finalmente ci riposiamo. E quindi avrete modo di continuare a confrontarvi con questo tema che continua ad attraversare tutto questo Altofest 2022. Alla console Giovanni Passariello, Radio Live, e ai disegni Ilaria Garzillo, che purtroppo in radio non potete vedere ma che poi prossimamente pubblicheremo sul sito. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie sempre allo staff, grazie alla WOSM che ci ospita, e niente, al prossimo spettacolo. Ciao.